Il ritorno alla normalità si misura anche da questo. Primo, si torna a parlare di migranti. L'Italia e i paesi di frontiera tornano a scrivere a Bruxelles per chiedere quote europee. Secondo, torna la piazza dopo il centrodestra del 2 giugno. Ieri le manifestazioni in solidarietà, la lotta per i diritti degli afroamericani con assembramenti nelle piazze italiane, con multe, chissà, e il ritorno delle sardine. Terzo, si continua a parlare o parlucchiare di cambio di governo in autunno. Quarto, venerdì il calcio torna in campo con la Coppa Italia. Quinto, oggi c'è lo sciopero della scuola. Ma nell'economia non c'è nulla di normale. Mentre Confcommercio denuncia l'aumento dell'usura e le mani della criminalità che si allungano sulle aziende, c'è più di 1 milione di persone che aspetta ancora la cassa integrazione. L'INPS assicura che entro venerdì sarà tutto a posto. Vedremo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, bentornati a 24 Mattino. Sono le 6, 31 minuti e 45 secondi, è lunedì 8 giugno. La task force di questa mattina è composta da Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza e redazione Giorgio De Luca, e il resto della redazione è composta come sempre da Gloria Guerrera e Alessandro Marco Tulli, e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Ma la vera task force siete voi, che già mi state scrivendo, già ci state scrivendo al 349-238-6666. SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, mi raccomando le vostre voci, mi raccomando. E adesso arrivo, lo dico all'ascoltatore che è già scatenato dalle 6:21, che scrive: parlate dell'appalto per le forniture della regione Lombardia, quello nel quale c'è il coinvolgimento della moglie di Attilio Fontana. Ci arriviamo, tranquillo. Parliamo di tutto, non abbiamo problemi, lo sapete perfettamente, eh? Tutti voi che una mattina ci accusate di essere leghisti, quella dopo di essere il Movimento 5 Stelle, quella dopo di essere contiani o pro-governo. Siamo qua e parliamo di tutto come sempre. Tranquilli, tranquilli. Allora, sapete che facciamo? A questo punto iniziamo proprio da qua, eh? Qual è il tema? È un appalto per una fornitura di camici dato ad un'azienda nella quale la moglie del presidente della regione lombarda, Attilio Fontana, detiene un 10%, nella quale il cognato Attilio Fontana, quindi il fratello della moglie, è l'amministratore delegato. È una nota azienda di moda, e un'inchiesta di Report dice: beh, gli è stato dato un appalto per la fornitura di camici, un appalto, se non vado errato, intorno ai 500.000 euro. Sentiamo un passaggio di Report nel quale parlano appunto con il responsabile della società. Sentiamo. Giorgio Mottola, sono un giornalista di Report, E3. Vorrei chiederle dell'appalto per i camici. Non è un appalto, è una donazione. In realtà all'aria non risulta, sembra invece un'aggiudicazione, mi pare, di una procedura negoziata, tra l'altro. No, guardi, non ho una donazione, chieda pure all'aria, ci sono tutti i documenti. Noi abbiamo donati anche ad altre persone, abbiamo donato mascherine. Sono un'azienda lombarda, devo fare il mio dovere. Però mi scusi, in realtà, leggendo le carte, noi abbiamo letto tutti gli incartamenti, sembra in realtà non è una donazione, è un appalto in realtà. Cioè, lei ha venduto dei camici ad aria. A attaccare. Sì, attacca, però poi in realtà questi camici di fatto sono stati donati, nel senso che poi le fatture sono state stornate ed è nella sostanza una donazione. Vedremo che cosa ne emergerà. Qua il punto però, insomma, appalti o non appalti, e questa vicenda, devo dire la verità, non è così chiara, no? Come sembra da report, quindi c'è la difesa della regione Lombardia, Fontana che parla di un ennesimo attacco politico vergognoso, di fatti, artefatti e scientemente omissivi. Appunto, non viene parlato, non si parla del fatto che c'è stato lo storno di queste fatture, quindi di fatto questi camici non sono stati pagati dalla regione, ma si tratta effettivamente di una donazione. C'è il tema più generale di cosa ha fatto la regione Lombardia durante la pandemia. Ebbene, oggi partiranno delle denunce dalla popolazione di Bergamo, una cinquantina per il momento, probabilmente ce ne saranno ulteriori nei prossimi giorni. Alla guida di tutto questo c'è una persona che si chiama Luca Fusco, che la mette così: in Lombardia abbiamo avuto 16.000 morti. Non stiamo parlando di qualcosa che può essere dimenticato. 16.000 morti sono indimenticabili, sono una guerra. La protezione civile, io non so da chi dipendeva, ma comunque noi non avevamo dispositivi di sicurezza, non avevamo mascherine, non avevamo bombole d'ossigeno, non avevamo saturimetri. Saturimetro è un prodotto che costa su internet 5 euro. Non l'avevamo. La regione non aveva saturimetri da distribuire ai medici di base. È uno scandalo, veramente uno scandalo. Ed ecco qua, forse il vero punto sul quale bisognerà riflettere è come la regione Lombardia ha gestito la parte sanitaria. Ed è il grande tema, mi pare, al centro della scena. Come si diceva, ritorno alla normalità che porta le persone in piazza. Della manifestazione del centrodestra abbiamo parlato infinitamente, quella del 2 giugno, ieri manifestazione in solidarietà per George Floyd in varie piazze italiane con cori, no? Ritorno delle sardine, Jasmine Cristallo. Il successo in America non è qualcosa che è distante da noi. Noi non siamo immuni da quel genere di problematica. Ogni volta che c'è un abuso di potere, c'è una storia che ci appartiene, che ci riguarda. Quello che è successo in America è successo anche qui. È successo a Stefano Cucchi, è successo a Benito Morandi. Se ne coglie l'occasione per tornare a chiedere lo ius soli. Caro Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net, Roberto, come stai? Buongiorno, eccoci qua. Eccomi. Non so se eri in linea, dicevo prima che insomma stiamo un po' tornando alla normalità, no? Innanzitutto con il ritorno della piazza in grande stile tra il 2 giugno e oggi, poi si torna a parlare di migranti perché, insomma, abbiamo la lettera dell'Italia insieme a Malta, a Cipro, alla Spagna per chiedere all'Europa di ridistribuire i migranti. Oggi c'è lo sciopero della scuola, quindi anche questo è un piccolo segnale di ritorno alla normalità. E infine, come scrivevi, no, tu su formiche.net, si torna a parlare di un cambio di governo, perché non possiamo farci mancare nemmeno questo nel ritorno alla normalità. No, il cambio di governo che è un grande classico della letteratura politica italiana, tant'è vero che basta contare il numero dei governi che si sono succeduti nella storia della Repubblica, e siccome si vede che il numero dei governi è quasi uguale al numero degli anni, ecco che una volta l'anno il tema dalle nostre parti si pone. Quindi è un segno indiscutibile del ritorno alla normalità in Italia, senza dubbio. Sì. Ci siamo. E secondo te come va a finire poi? Salta Conte, come qualcuno dice, oppure no? Dunque, la mia opinione è questa. Ti sento l'incertezza di chi ha paura a sbilanciarsi. No. L'incertezza è legata al fatto che né io né nessuno conosce l'esito di questa vicenda. Dico soltanto questo però, che le difficoltà degli ultimi giorni e anche questa, secondo me, un po' stiracchiata iniziativa degli Stati Generali sono il segno che anche a Palazzo Chigi si è compreso che la stagione della coronavirus, nella sua forma più virulenta, la cosiddetta fase 1, è stata anche politicamente, diciamo così, tra virgolette, quindi in senso metaforico, utile a coprire tutti gli altri temi. Essendo questa fase fortunatamente sul piano politico finita, sul piano politico poi tutti gli aspetti sanitari li dovremo vedere, compreso quello che evocava il signor Fusco nelle parole che hai mandato in onda, perché non è che noi, è vero che l'emergenza ha colpito l'Italia e moltissimi altri paesi, però sarebbe folle non cercare di cogliere questa lezione e vedere dove abbiamo sbagliato e dove possiamo fare meglio. Ma quello che voglio dire è che il ritorno alla normalità significa anche vedere tutte le cose che ci sono e quelle che non ci sono. Per esempio, negli Stati Generali evocati dal Presidente del Consiglio piombano alcuni dossier, penso a quello delle concessioni autostradali, sì, piuttosto che alla vicenda, certo, dell'Ilva di Taranto, di cui da mesi si parla senza che in realtà si sia trovata una soluzione accettabile. Sì. E allora tutti questi nodi a un certo punto vengono al pettine. Allora io dico, se gli Stati Generali sono il luogo per andare e mettere una parola fine a queste vicende, allora hanno un senso. Se sono un'altra volta un'occasione per dire bisognerebbe trovare una soluzione all'Italia, e allora anche, sì, la stabilità di governo, questo la governo. Ormai all'Italia è parte integrante, giustamente anche di questa narrazione. Abbiamo una serie di dossier, come tu dicevi giustamente, sono rimasti sospesi, no? Hanno subito una sorta di sospensione da Covid. Esatto. E adesso tornano ad emergere alcuni, come quello di Ilva, in maniera particolarmente potente. Quello delle concessioni autostradali è chiaramente un dossier che crea anche dei problemi politici all'interno della maggioranza. Quello di Ilva è un problema che ha a che fare anche con il mercato che si è drasticamente ridotto per l'acciaio, e ne stiamo vedendo i risultati in questo, certo, momento. Simone, dico solo questo, anche lo stucchevole dibattito italiano, usiamo il MES sì o no, a un certo punto decidiamo. Senti, chissà Roberto se ieri le manifestazioni, no, che abbiamo visto in piazza hanno preso, cioè, c'è stata qualche multa in giro oppure no. Devo dirti che le immagini erano insomma abbastanza impressionanti, cioè, ormai che siamo abituati, no, a vedere la gente distanziata, vedere questa piazza piena per George Floyd, con tutto il rispetto per la battaglia, giustizia, tutto quello che vogliamo, un po' di impressione l'ha fatta. Sì, sai che riflessione viene a me, guardando i filmati americani. Beh, io dico che... No, io dico quelle, insomma, italiane, io dico quelle italiane. Sì, perché... sì, quelle italiane, ma la riflessione che a me interessa di più di questo è questa. Io non credo che persone in divisa in Italia si sarebbero mai comportate così. E noi questo molte volte lo diamo come per scontato, ma non è così, perché nel mondo, come vediamo, anche nella democratica e civile America, succedono cose di questo genere. Ecco, io credo che carabinieri, poliziotti, guardie di finanza, vigili urbani, in Italia nessuno in divisa si sarebbe comportato in quel modo. Sì. E noi a volte diamo per scontato tutto questo, ma le cose non sono così, e le immagini americane ce lo dimostrano. Sì. Bene che si faccia questa manifestazione, bene che si gridi, sì, con forza che non devono finire così vicende come quella che purtroppo ha portato alla morte di quell'uomo americano, e noi abbiamo il dovere civile di strillare che non va bene così, però ad un metro di distanza, possibilmente, però ad un metro di distanza o almeno sì, un metro di distanza, che naturalmente poi più in generale con l'abbassarsi della tensione vedo rispettato un po' così, insomma, vedo ristoranti, banche, sì, stanno in fondo, io la capisco questa ricerca di tornare alla normalità, sì, perché adesso onestamente è umana, è comprensibile, e per chi fa dei mestieri come ristoratore, tanto per fare un esempio, è anche un fatto economico serio. Cerchiamo di fare attenzione, vedo un rilassarsi generale, sì, però vedo anche che i dati sono accettabili, almeno da quello, sì, che vediamo, no? almeno per il momento. Naturalmente è stato un fine settimana di piazza anche per gli ultras. No, queste istanze politiche nascono da ogni categoria italiana. Oggi le curve è un altro modo per manifestare il proprio dissenso. tutto qui. Scusi, lei durante il lockdown ha avuto problemi di che cosa? Io non ho ricevuto i 600 euro, io ho perso il lavoro perché sono libero professionista, ho avuto i problemi che... Perché mi hanno chiesto per tutto? No. Fino a sud autorità a parlare a nome dei ragazzi d'Italia. No. Sì, con manifestazione con connotazioni di estrema destra, chiaramente, braccio destro alzato e cose di questo genere. Ricordano Roberto Arditi, molti ascoltatori ci dicono sì, il caso Uva, il caso Cucchi, il caso Aldrovandi, il caso della scuola Diaz. Cioè, non abbiamo detto che non esistano casi di questo genere in Italia, semplicemente che rispetto a quello che vediamo negli Stati Uniti è semplicemente più raro, Certo, nessun paese è immune da quei problemi, neanche l'Italia, e quindi sarebbe sbagliato pensarlo o dirlo. Diciamo che ci sono situazioni nel mondo molto più gravi della nostra. Poi è vero che anche noi abbiamo avuto, vorrei anche dire, Simone, che i casi che abbiamo citato conoscono anche però poi procedimenti giudiziari a carico dei presunti responsabili, in alcuni casi che sono anche giunti a sentenza. Quindi, insomma, certo, è giusto che molti ricordino che anche noi abbiamo avuto casi di quel genere, sarebbe sbagliato negarlo, però abbiamo anche gli anticorpi abbastanza sviluppati per porvi rimedio, questo sì. Vorrei solo una battuta su quello che sentivamo della manifestazione. Nessuno è autorizzato a parlare è una frase che non vorremmo sentire. Ah, no, nel senso che ognuno parla e dice quello che vuole. Certo, soprattutto in una piazza, traffico. Esatto. Mattino. Oggi sciopero della scuola. Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola, buongiorno, benvenuta, eccoci. Buongiorno, grazie. Buongiorno, eccoci qua. Allora, però io la prima domanda che le devo fare è su un caso particolare. Ne abbiamo parlato un po' tutti e tanto nel fine settimana. Quella della maestra di Prato, la maestra Francesca, che legge i libri ai bimbi nel parco, si è organizzata con i genitori, ha dato il via a questa appunto lettura nel parco, quasi una sostituzione delle lezioni per i bambini più piccoli, e si è beccata una reprimenda proprio dal vostro sindacato, un vostro sindacato carista che ha detto così, mette in cattiva luce i colleghi. Ne ha scritto Gramellini, ne ha scritto chiunque, l'abbiamo commentato sui social all'infinito. Cosa dite voi? Innanzitutto dico che la chiacchierata che ho fatto per quasi mezz'ora con la maestra Francesca è stata piacevolissima. Abbiamo parlato da maestre, perché sono anch'io una maestra, abbiamo condiviso tante esperienze comuni. Le ho espresso grande solidarietà, anche il collega non aveva sicuramente quell'intenzione ed è stato probabilmente anche fraintito, perché in questi giorni la pressione sul mondo della scuola con la volontà di riaprire a prescindere, di mettere in movimento la festa di fine d'anno, hanno prodotto diciamo delle il suo collega ha sbagliato, diciamo. Certo, ma non è stato anche molto condizionato e frainteso dall'atmosfera che c'è. Io ho assolutamente, anche lui ha chiamato la maestra, scusa, la maestra in prima persona, sono chiariti, no, hanno chiacchierato amabilmente, veramente alla maestra io ho fatto l'invito di farci pervenire, come facciamo di solito, una nota sulle esperienze belle che vive nella scuola. Noi pubblichiamo sul nostro sito, abbiamo pubblicato per tutto questo intero periodo tutte le esperienze innovative con la DAD, quindi non vero con la maestra. Poi diciamo c'è stata un po' di enfasi, c'è stato qualcuno che aveva voglia di togliersi il fassolino nei confronti dei sindacati, in questi ultimi giorni ce ne sono tanti, e quindi Il tutto avviene, insomma, in ore nelle quali proclamate uno sciopero che, glielo dico francamente, Gissi, molti italiani non capiscono. È un peccato, perché molti italiani dovrebbero leggere la lettera che abbiamo rivolto alle famiglie e agli studenti. È uno sciopero per le famiglie e per gli studenti, non è uno sciopero per la scuola, tant'è che oggi molto personale, non è nemmeno in servizio, perlomeno chi ha terminato l'attività didattica ha un'altra programmazione. Stiamo versando l'imposto della giornata economicamente alla protezione civile, quindi immagini uno sciopero dove non c'è il dato numerico e per giunta c'è anche un versamento. Perché lo stiamo facendo? Perché c'è un problema per la ripartenza. O noi riportiamo al centro della discussione tutte le problematiche ataviche, storiche della scuola, irrisolte sicuramente negli ultimi 10 anni, però le portiamo alla luce della sicurezza e della salute, perché come diceva il Comitato Tecnico Scientifico, non lo dico io, lo ha detto il Ministero della Salute, la scuola per i suoi numeri, per l'utenza, per la platea, per le famiglie, diventa l'elemento più diciamo complesso e più problematico di tutti gli altri contesti, perché una cosa è portare al lavoro in un'industria del personale, chiaramente con tutte le condizioni di sicurezza, in una banca, in un ufficio, una cosa invece è mettere in movimento 8 milioni di studenti, a loro volta hanno un circuito familiare che conosciamo bene, mobilità, distanziamento, ingressi di scaglionati, la possibilità anche di organizzare l'ambiente classe, classi che a tutt'oggi sono composte da 25, 28, anche 33 alunni, e bambini piccoli, quindi è complesso, è proprio l'unico. Ho visto oggi, mi pare sulla Repubblica, no, se ci sono i dati, un vostro studio nel quale si dice che di fatto avanzano, per così dire, scusate per l'espressione, sono anch'io padre di 3 figli e vanno a scuola, quindi non lo dico trattandoli come oggetti, avanzano 10 studenti per ogni classe mediamente, più o meno, una media del 20,55, media nazionale, in Emilia Romagna 21,96, media, quindi vuol dire che abbiamo le classi nei piccoli paesi di campagna, di montagna, da 15 a 17, anche da 12. Mi avvicini la bocca alla cornetta, diciamo la parte nella quale si parla. Dicevo, la media è 20,55, quindi nelle grandi città metropolitane, nelle grandi aree metropolitane, i numeri sono spropositati, sono anche allocate in plessi storici, alcuni sono edifici storici che risalgono, 3.500 credo siano gli edifici che risalgono agli anni 20. Gissi, ma il plexiglass come lo vedete? Veramente un po' complesso. Io mi aspetto l'indicazione dell'INAIL, perché l'INAIL sicuramente non amerà l'idea di un plexiglass che può essere anche un elemento di per gli infortuni molto complicato, immagini lo spessore, la parte ondulata, poi i bambini e anche gli adolescenti si alzano, camminano, se ce ne sono 28 in una classe non serve il plexiglass, 28 non hanno nemmeno la possibilità di areare gli spazi in una classe che ho detto sono una classe che non ha gli metri quadri previsti. Il distanziamento di un metro, un raggio di un metro, un diametro di 2 metri. Parliamone. Sì, io però non ho ancora capito, mi scusi, perché lo sciopero? Perché quando abbiamo cominciato a discutere con il Ministero... lo strumento dello sciopero, non comprendo. Perché se non avessimo proclamato lo sciopero non ci sarebbe stata la riunione fatta dal Presidente Conte di 2 giorni fa, una bruttissima riunione quasi inutile, dove però è venuto allo scoperto il disinteresse del governo, perché alle richieste degli enti locali e non dei sindacalisti, alle richieste dei genitori, alle richieste anche degli studenti e dei disabili, il governo ha risposto 1,4 miliardi, ma sono tanti, poi 4 miliardi, vabbè, le altre cifre lasciamole perdere perché sono come i carri armati di Mussolini, li spostiamo da una parte e li mettiamo dall'altra. Ma quando Bonaccini, De Caro hanno spiegato al Premier Conte che servono subito e serve una pianificazione, serve un'indicazione certa, il Premier Conte ha risposto, ma voi avete i soldi degli enti locali, ma sono per le scuole, la messa in sicurezza per le scuole, ci sono già progetti, va bene, ma potreste anche fare una pitturazione. Questi sono gli elementi di discussione e di investimento per la scuola. Se lei padre con 3 figli è d'accordo con queste posizioni, me lo dica. Io non dico niente. In dieci secondi cosa ci vuole, Gis, secondo voi? Ci vuole il coraggio di venire fuori. No, concreto. Voglio quattrini. Ci vogliono soldi, ci vogliono dai 7 agli 8 miliardi. Otto miliardi? 8 miliardi. Ho capito bene, 8 miliardi. 8 miliardi per ripartire a settembre. 8 miliardi per far sì che ci sia un anno scolastico regolare. Diversamente avremo diminuzione del tempo scuola e lo avranno i suoi figli. Il problema è che lo avranno anche i ragazzini di Scampia dello Zen, quindi qualche problemino ce l'avranno un po' di più. Grazie Maddalena Gissi della CISL Scuola, grazie Roberto Additti, direttore editoriale di formica.net. Ci fermiamo, come sempre c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa con Paolo Mieli. Se volete potete continuare a scriverci al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, WhatsApp scritti naturalmente, le vostre voci appunto e per gli SMS. Siamo anche in diretta su Facebook, sulla pagina di 24 Mattino, a tra poco.